Radio. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Eccoci qua, 22.06, buonasera a tutti, buonasera da Rockway, buonasera Michele Tosoni in regia e buonasera agli impossibili, siete venuti da tra Milano e Trento, che bello, tra Milano e Trento, una cosa molto bella, cosa dite? Metà gruppo da Milano, metà gruppo da Trento. Ciao a tutti, eh. State bene? Ciao, ciao. Avete fatto, tu hai fatto un giro in treno, un giretto. Sì, insomma, insomma, una bella 5-6 ore ho fatto di treno, però... Sono contentissimo, ecco, ci mancherebbe. Bene, e poi voi due siete venuti in macchina o no? In macchina, sì. Cioè. Bene, avete fatto dopo un viaggio? Un po' la Valsugana, un po' complicata, vero? Dicevi? Sì, è un po' di traffico. Un po' di rientro dalle ferie. Ma è sempre così la Valsugana, penso, sì. No, è vero? Tu che percorri spesso, sì, e volentieri. Direi di sì. Bene, gli impossibili, formazione odierna, ma come sono nata Raia gli impossibili? Dove nascono musicalmente? L'idea come ti è venuta? L'idea mi è venuta, io volevo fare un gruppo alla Ramones, perché io sono un grande alla Ramones. Standing ovation. Esatto. Volevo fare un gruppo alla Ramones perché era secondo me un gruppo fantastico. Mm-hmm. Ci ho provato, non ci sono riuscito perché i Ramones sono inimitabili. Certo. Però ho fatto, alla fine abbiamo fatto questo gruppo, è venuto fuori qualcosa di nostro e anche abbastanza di originale, credo. Certo. Abbiamo creato una specie di un vero e proprio genere. Un progetto vostro, praticamente. Esatto. Sì. 15 anni non sono pochi di anzianità e di servizio. Insomma, non mi pesano, però. Sento ancora giovane. E 15 anni, 4 album, mica uno, No, ne ho fatti 6. Ne ho fatti 6, ecco. Sono indietro di 2. 6 album sono tanti per un gruppo italiano, secondo me. Sì, è il gruppo indie, possiamo dire indie, Raia. Indie, cioè emergente, cioè fuori dal circuito normale. Sì, esatto. Dicevo quello, sì, alternativo, quello. Sì, sicuramente. Alternativo, esattamente. Sicuramente. E 6 album, sì, sono tanti. Tutto da voi, autoprodotti. Tutti, gli ultimi 2 sono autoprodotti, perché secondo noi è l'unica scelta per rimanere veramente liberi. Certo. Perché altrimenti abbiamo fatto anche delle coproduzioni, però scendi sempre dei compromessi e noi siamo un gruppo che non scende a compromessi. E quindi questa scelta di fare le autoproduzioni. Sì, 6 album sono tanti, però... Ci sentiamo ancora, insomma, se abbiamo fatto 6 album è perché ci crediamo in quello che facciamo. Certo, certo. Presenti anche i tuoi colleghi, dai. Allora, Matteo alla chitarra e ai cori, Claudio al basso e ai cori, e assente il batterista, Harry, adesso che c'è ci Harry. Sente via streaming. Ci sente via streaming, lo salutiamo. Ciao Harry. Sono il tamburello, io al posto tuo sono io, non ti preoccupare. Visto che sei il tamburello, esatto. Che poi sentiremo il tamburello. Sono formazione a 4, no. Di solito il trio l'effervescenza del punk, però a 4 va bene lo stesso. Eravamo un trio, però con gli ultimi pezzi abbiamo sentito la necessità di aggiungere un altro chitarrista. Lui ha alzato la mano. Esatto, lui Matteo. e ne vale veramente la pena, perché con 2 chitarre il suono è più pieno, più corposo. Adesso ti faccio una domanda cattiva. È difficile fare punk in Italia, sì, vero? Ti rispondo dicendo che non è difficile, è difficilissimo. Cioè, uno o lo fa per passione o non si riesce ad andare avanti, veramente. Infatti, guarda, non ti dico di quanto siamo indebitati noi per l'ultimo album. Comunque, vabbè, la passione. Ma guarda, io conosco tanta gente, tanti miei amici che stanno nell'ambiente, che anche loro sono come che non me. Fanno punk, fanno altre cose. Fanno punk, sì, sì, sono indebitati, ma continuano. Perché la passione è la più forte di tutti. È troppo forte. Sì. Però autoprodurre un disco è una bella cosa, però. Francamente, sì, cosa sì, dici? Sì, perché sei libero di fare le tue considerazioni musicali come vuoi, non hai paletti. Infatti, quest'album l'abbiamo fatto autoprodotto proprio dall'inizio alla fine, copertina, tutto quanto. E ripeto, è l'unico modo per rimanere veramente, veramente liberi. Dal punto di vista musicale, come siete partiti? Mi dicevi che i primi album erano leggermente punk melodico. Sì, siamo partiti un po' più spensierati, diciamo, i primi album erano un po' più così, con dei testi abbastanza leggeri. Mm. Anche se le ragazze sono presenti anche qua. Le ragazze sono presenti anche qua, è proprio una mia fissa. Però non sono ragazze normali, vorrei precisare, sono ragazze robotiche, mezzi zombie, insomma, sono un po' strane, un po' horror, diciamo. È la mia mente malata che le elabora queste ragazze. Ho capito. E niente, però siamo partiti un po' più leggeri come testi, però poi nel corso degli anni è stata proprio un'evoluzione naturale. Ci siamo un attimino più addentrati nei temi un po' più sociali, insomma. Certo. di quello che non ci piaceva, di quello che ci piace, di quello che non ci piace di quest'Italia. Certamente. Allora, sono le 22:11, come da nostra consuetudine apriamo la finestra. Che traccia avete scelto per iniziare a sentire il disco praticamente? Milano, che anche questo è un tema pesante, cioè importante, e anche musicalmente però è molto accattivante, secondo me, nel ritornello. Sì, Milano è praticamente, abbiamo voluto fare un ritratto della nostra città. Della tua città. Della mia città, sì, perché loro, sì, sono, perché di loro sono di Trento, sono un po' fuori. Ma Trento forse è un po' più bella, lo spero. Un po' più piccola, possiamo dire questo. Più piccola, forse più bella. Molto più piccola. No, abbiamo fatto un ritratto veritiero della città, sì. Fatto dalla gente che ci vive. Noi la viviamo tutti i giorni, la città non è solo quello che magari può vedere uno che viene da fuori, non so, via Monte Napoleone, i monumenti, le vie importanti, esatto, le vie in, diciamo. E tu possiamo dirlo la tua professione. Diciamo, tu la percorri sempre Milano, sì, la percorro sempre. Io sono sulla strada, ragazzi, 24 ore su 24. Se non la conosco io Milano, non la conosce nessuno. Beh, insomma, questo è un ritratto un po' più veritiero, perché non c'è solo questo, dicevo, c'è anche le periferie, lo spaccio, certo, la prostituzione, insomma. E Milano abbastanza marcia. E in tre minuti scarsi, 2 minuti e 30, 3 minuti, che è proprio la tipologia del punk, hai descritto Milano. Sì. La sentiamo, ok? Sì, sì. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con gli impossibili. Questa è la classica trasmissione del mercoledì del live, chiaramente. E live partirà fra qualche minuto. E adesso voglio sapere da Rai e dagli altri come è nata musicalmente l'idea di fare questo pezzo Milano. Milano. Beh, io li preparo io musicalmente, li suono io con la chitarra classica. E poi mi mandi via email a. Esatto, noi a siamo un gruppo moderno, siamo come i gruppi americani che fanno già da molto tempo. Esatto. Quando lo racconto la gente non ci crede, però noi siamo un gruppo un po' non particolare. Non ci crede neanche che veniamo da Trento, perché praticamente metà del gruppo è di Milano e metà di Trento. Io preparo i pezzi, li faccio io col testo, anche con la chitarra classica. Quando li trovate allora? Uno di Trento, uno di Milano. No, gli mando i pezzi. Vi troverete per fare poi ci troviamo per fare le prove, però certo. Così già sappiamo quello che dobbiamo fare, diciamo. Gli mando i pezzi via mail, loro li preparano, poi ci troviamo, mettiamo a posto le ultime cose, smussiamo gli angoli e alla fine il pezzo viene fatto e vengono benissimo, ragazzi. Esatto. Ve l'assicuro. abbiamo dimenticato una cosa, di dire il titolo del disco. Il disco si intitola Senza Ritorno. E senza ritorno perché dopo questo disco siamo lanciati come dei kamikaze e praticamente non torniamo più indietro. Perfetto. È un volo suicida, senza ritorno, perché trattiamo dei temi abbastanza scomodi, quindi niente, chi lo ascolta o ci ama o ci odia. Perfetto. È stato registrato ai Massive Art Studios e da parte del Salmon Studio di Dario Dario Mari. Che è un esperto di sì, è un esperto nelle note. Sì, è un mio amico, quello che dicevo che si era indebitato anche lui. Anche lui sì. È un altro pazzo. Comunque è molto esperto sul genere, è veramente professionale. Dobbiamo sottolineare una cosa: gli ascoltatori non lo sanno, ma quando si entra in uno studio si deve tutto veloce. Perché lo studio costa. Sì, perché lo studio costa, anche le canzoni sono veloci. sono veloci per l'autonomasi, il punk è veloce. Esatto. Chiaramente, però lo studio costa e le cose devono essere tutte a posto, vedi? Sì, così. Quando si va in studio bisogna essere preparati per non perdere tempo, perché il tempo è denaro quando si va in studio. Soprattutto in quel caso, molto denaro. Visto che avete fatto tutto voi. Sì, poi autoproduzione. È stato veramente un sacrificio, sia psicologico che fisico, economico. E fisico soprattutto. Perché Matteo fisico? Cioè, perdono, Claudio fisico, come mai? Perché? È stato pesante. È stato un lavoro pesante, pesantissimo. Sì, quando si va in studio è perché anche... perdi completamente... termine del tempo. Il tempo, sì, perché non... entri dentro che è mattina, esci fuori che è sera, è buio, non sei più che ore sono, non è... a notte fonda quasi qualche volta. Sì, poi ci sta a contatto molte ore, c'è anche del nervosismo. Certo, comunque, così. Poi quando si continua a rifare lo stesso pezzo, più si nervosisce. Insomma, bisogna mantenere la calma quando si fa. E l'ultimo arrivato, Matteo, come si è comportato? Matteo è bravo, è novellino, quindi sta al suo posto, fa il bravo e cerca di placare tutti gli altri. Siamo abbastanza nervosi. L'abbiamo preso soprattutto per la sua immagine di bravo ragazzo. Per quello. No, scherziamo, è molto bravo Matteo, professionale, venuto preparatissimo proprio. Quindi, i miei musicisti sono tutti preparati benissimo. Benissimo, non mi posso lamentare. Bene, è una cosa positiva, cioè avere subito un accordo per partire non è mega semplice, Rai. Sì, guarda, è difficilissimo trovare l'affiatamento nel gruppo. Tra l'altro io ho cambiato formazione negli anni. E prima c'erano gli altri componenti e adesso ho trovato loro. È difficile trovare la giusta amalgama. Certo, è una cosa. E quello è importante. Quando si è trovata, però si va avanti senza problemi. Sì. È una bella fortuna trovare la mano, perché non è così facile. Certo. Salutiamo e ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che grazie a lui stasera siete qua. E due o tre ragazze panchettare anche loro, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci sentono sempre ogni mercoledì. Ciao, giorni, ma specialmente al mercoledì. Ok, cominciamo allora la carrellata musicale, cioè suoniamo. Che cosa? Allora, la prima canzone che facciamo è Utopia. È un sogno, di Energie Pulite, che potrebbero già essere disponibili, ma non lo sono, secondo noi, per interessi che ci sono sotto. Chiaramente. Ok. Accio, te, po. L'energia pulita qui non c'è. E la giunta comunale non sa qual è. Ormai raschiamo il fondo del barile. e lo Stato fa finta di non capire. Presto finiremo le scorte di energia, la terra pulita è soltanto un'utopia. I ministri che oggi sono a potere moriranno ed il futuro non lo potranno vedere. Saremo sotterrati dai rifiuti e tutti i ragazzi saranno perduti. Non ci sarà più acqua da bere, dall'orlo del baratro stiamo per cadere. Presto finiremo le scorte di energia, la terra pulita è soltanto un'utopia. I ministri che oggi sono a potere moriranno ed il futuro non lo potranno vedere. Petrolio, carbone, un disastro nucleare, ma niente energia eolica, quella solare. Allo Stato importa solo di tassare, e chi se ne frega se il mondo andiamo ad inquinare. Go! Presto finiremo le scorte di energia, la terra pulita è soltanto un'utopia. I ministri che oggi sono a potere moriranno di futuro non lo potranno vedere. Petrolio, carbone, un disastro nucleare, ma niente energia eolica, quella solare. E allo Stato importa solo di tassare, e chi se ne frega se il mondo andiamo ad inquinare. Petrolio, carbone, un disastro nucleare, ma niente energia eolica, quella solare. E allo Stato importa solo di tassare, e chi se ne frega se il mondo andiamo ad inquinare. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, ci siamo, abbiamo sentito il pezzo. Allora, Utopia, che è un pezzo decisamente importante anche come testo, veramente presente, pesante nel senso positivo del pesante termine. Ma poi ne facciamo anche di più leggere. Sì, beh, chiaramente esattamente. E anche musicalmente, sì, anche questo è un testo, chiaramente un pezzo punk. E l'idea di fare questo il musicalmente, come l'hai nata, sviluppata? Il testo l'abbiamo capito, un testo importante, fondamentale. Esatto. Poi? La musica, mi sono ispirato, ma a me piacevano molto i Bad Religion di No Control. Diciamo che ho preso ispirazione da loro. Infatti, se vabbè, adesso qua nell'acustico magari non si sente proprio benissimo, però ho preso ispirazione da quegli stoppati che facevano i Bad Religion. Uh-huh. Insomma, a me piaceva molto quell'album No Control. Uh-huh. E quindi ho preso ispirazione, diciamo, da loro. Però il testo è tutto mio, tutto. Uh-huh. Tutto. Però musicalmente sei. Musicalmente, ma cioè, diciamo sì, questa canzone si sente che è grandi linee, a grandi linee. Sì, sì, si sente che è ispirazione sicuramente loro, che sono i maestri in questo genere. Decisamente. Ma sono solo di Bad Religion. Ami Bad Religion o ami similare musicalmente, no, sviluppo della musica in quel senso là dei Bad Religion? Ma sì, sviluppo così, però mi piacciono. Diciamo che io faccio. Quando faccio le canzoni non mi sento mai incatenato in un. No, è giusto che sia. Sei libero. Sono libero, infatti io. Autoprodotto, libero. Autoprodotto, sono libero. Sono liberissimo. Infatti io sono libero di fare qualsiasi cosa. Il bello del punk è anche quello, certo. Sei libero di fare quello che certo, vuoi. Certo, certo. Era buon insegno, non è? Esatto. Ma io mi sento libero di fare qualsiasi cosa. Quando creo una musica, non la creo con degli stereotipi, diciamo. Che mi sento libero di spaziare. Ovvio, a me influenzano i gruppi che mi piacciono, che vanno per la maggiore, che mi piacciono di più, diciamo i Bad Religion, i Ramones, possono essere. Ma i Ramones Misfits. Sono i padri di tutti, cosa dici? Non erano We're Happy Family, quindi no. Quindi sono padri di tutti. E musicalmente, quando l'hai composto questo pezzo rispetto alla scaletta degli altri, Araya? Li ho composti bene o male tutti nello stesso periodo, questi pezzi, perché non voglio che vengano troppo distaccati non voglio che vengano troppo distaccati i brani, uno diciamo che quando creo un album cerco di crearlo tutto nello stesso periodo, perché secondo me si sente un po' che è stato creato in un altro periodo, e quindi cerco di crearli tutti nello stesso momento. Benissimo, benissimo. È chiarissimo, abbiamo capito come è nato Senza Ritorno praticamente, sì. O quasi. Beh, interessante il discorso che tu scrivi i pezzi, poi li provi un momento alla chitarra e poi li mandi via email. Sì, e mi ricordo un caso, beh, tu hai già citato musica americana, da tempo che fanno queste cose. Beh, costo lo fanno, esatto. Da una parte all'altra degli Stati Uniti poi si trova. Lo ha fatto molti anni fa Bono con Frank Sinatra. Ah, vedi, ci hai paragonato a Bono. No. Insomma. Non ti va bene. Beh, insomma. Non ti va bene. Tanto di cappello. No, va benissimo. Anche troppa grazia. Adesso è stato ricoverato recentemente in ospedale, lo sai, no? Bono, sì. Mi spiace. Un mancamento. Abbiamo citato anche l'altro giorno, ho letto proprio di recente, al principessa Grace a Monaco, Monte Carlo, un ospedale da niente. Vabbè. Pensavo che era stato male perché ha sentito la notizia. Ci hai paragonato a lui. No, ma ho letto che il discorso di Bono, abbiamo citato di Bono, poi concludiamo, che la tournée degli U2 è stata una stratosferica dal punto di vista anche economico. Ha battuto tutti i record in assoluto. E chi l'ha visto recentemente, quando sono venuti a Milano, mi pare a Milano, il concerto è stato molto molto interessante. Sì, sì, beh, sicuramente loro. Anche economicamente interessante. Molto interessante. La spesa. Per entrare bisogna sganciare la pila. Però, d'altronde sai, l'ipertecnologia, un sacco di cose molto molto, sì, sì, molto beh, grandi. Beh, non vedi solo un gruppo che suona, vedi proprio uno spettacolo quando vai a vedere quei concerti, certo. Così. La differenza tra Bono e il genere punk, e i punk sono molto ristretti, molto racchiusi in se stessi, danno energia lo stesso ma con poca cosa, vero? È così, sì, è una caratteristica. Sì, sì, sì, diamo il massimo in 2 minuti di canzone. Esatto, il minutaggio è quello. E per noi suonare dal vivo è la cosa migliore. Esatto. Perché lì ti raffronti veramente con il pubblico, non ci sono barriere, lì veramente hai il contatto col pubblico che per noi è impagabile. Esattamente. Facciamo così, adesso abbiamo sistemato una cosa, facciamo un altro pezzo live così perdiamo con il basso. Cosa volete fare sentire? La mia ragazza 3.20. Ah, che è molto bella, è molto californiana, okay. Secondo me, è un punk melodico, molto interessante. Ok, è un pezzo un po' più leggero. Esatto. One, two, three, four. C'è un posto tutto mio dove vado appena posso. È oscuro e fatiscente, ma resistere non posso. Tra scosse e radiazioni mi isolo ed invento una ragazza cyborg che mi renda più contento. Ora aspetto il temporale per dar vita al mio robot. Con un fulmine da 10.000 volts. Chi pensava fossi matto, questo si ricrederà. Il mio androide strano molto si alterà. Forse allora lei mi sorriderà e con freddezza mi strangolerà. Oh oh oh oh oh oh oh. Le radiazioni ho caricato. Oh oh oh oh oh oh. Valvole di odio stabilizzato. Oh oh oh oh oh. Invidia da amici e conoscenti. Oh oh oh oh oh. La mia ragazza 3.20 è giù in periferia, vicino alla stazione. È mio laboratorio per la sperimentazione. Tra polvere e macerie è un luogo un po' dismesso, ma è solo luogo dove posso essere me stesso. Ora aspetto il temporale per dar vita al mio robot. Con un fulmine da 10.000 volts. Chi pensava fossi matto, questo si ricrederà. Il mio androide strano molto si alzerà. Forse allora lei mi sorriderà e con freddezza mi strangolerà. Oh oh oh oh oh oh oh. Le radiazioni ho caricato. Oh oh oh oh oh oh oh. Valvole di odio stabilizzato. Oh oh oh oh oh oh. Invidia da amici e conoscenti. Oh oh oh oh oh oh. La mia ragazza 3.20. Oh oh oh oh oh oh. Le radiazioni ho caricato. Oh oh oh oh oh oh. Valvole di odio stabilizzato. Oh oh oh oh oh oh. Per video da amici e conoscenti. Oh oh oh oh oh oh. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. La mia ragazza 3.20. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, ok, cioè, abbiamo sentito questo pezzo molto divertente secondo me, e non è il singolo, cioè ho presunto tale il pezzo, però per me poteva anche essere il singolo. E anche per noi, eravamo indecisi, infatti su questo è Milano, però Milano aveva un impatto diverso. Eh sì, un impatto mediatico diverso, perché chi la sente, non so, in Sicilia, Bari, certo, certo, sente Milano, attira di più l'attenzione che esatto. La mia ragazza 3.2. A me piacevano anche molto, se è molto bella, mi piace, sì, mi piace a me piacevano molto i Coretti, com'era il refrain di Coretti, un'altra volta me lo fai? Bello quello là, è tutto dal vivo anche questo, assolutamente. E l'idea dei Coretti come è nata, Raya? Quello lì è una caratteristica dei nostri primi brani, dei primi momenti, dei primi brani che si chiamano. Infatti questa canzone è un tributo ai miei vecchi fan che mi seguono da allora. Parliamo di fans, che tu hai praticamente un bel nutrito gruppo di fan che ti seguono. Sì, diciamo che andare avanti dopo tanti anni è sempre più difficile, ma una delle cose che mi fa andare avanti sono i fans, perché sono pochi, però sono buoni, pochi ma buoni. Esatto. Perché quando ci seguono vedo veramente dei ragazzi che credono veramente in quello che facciamo, in quello che diciamo, e ci credono ciecamente, e questa è la cosa, una delle cose che mi fa andare avanti. Bello, insomma, molto bello così. Sì, sì, è fantastico, guarda. E i concerti? Sì, giusto, no, bello, sì, si deve sentire, è una prova perfetta. E dicevi, i concerti, quanti ne fate durante l'anno i concerti? Se ne fate ancora? Concerti, determinato tipo. Siccome non seguiamo i canali tradizionali, diciamo, degli altri gruppi, facciamo i concerti praticamente quando ci capita l'occasione. Però c'è niente di male. No, infatti, quando io conosco tanta gente nella mia carriera, conosco parecchia gente e niente, mi tengo in contatto e loro mi contattano, li contatto io e cerchiamo di organizzare una specie di tour, diciamo. Però non essendo nei canali tradizionali, diciamo che le nostre date si muovono molto più rapidamente, diciamo nel giro di un mese già. Sì, e quando abbiamo le date le pubblichiamo. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori, che Raya fa tutto lui praticamente. Sì. Non ha una... Sono one man band, esatto. Come Bennato. Non è un'agenzia che praticamente tira fuori le date. Bravo, anche fanno perché devi sganciare la pila. Esatto, fanno tutto loro, e bisogna dire un grazie a questi ragazzi, fanno tutto loro. No, perché certe volte la gente non apprezza. E invece non lo sa, insomma. Cioè, ci vuole uno sforzo notevole, anche cercare le date, trovare i location giusti, tutte ste robe. Tutto, non è mica guarda, semplice. C'è da litigare anche con i gestori dei locali, guarda, non ti dico. È difficile trovare suonare dal vivo roba vostra a Milano o in giro a Milano, non so. A Milano è sempre più difficile. Come mai, secondo te? C'erano i centri sociali, sono stati pochi centri sociali che c'erano sono stati sgomberati. Nei locali c'è la mafia. Poi cosa ti devo dire? Suoniamo veramente dove capita. Guarda, fortunatamente nella mia carriera ho conosciuto tanta gente. E niente, questi mi tengo in contatto con loro e tramite loro riusciamo a fare delle belle date, magari anche fuori Milano. Certo, poi il discorso, tu dicevi a microfono spento, c'è il discorso delle cover band che praticamente tagliano i viveri a tutti. E beh, insomma, fanno il loro lavoro. Il loro lavoro. purtroppo. Però io preferisco un gruppo che magari non è bravissimo, però che fanno pezzi loro. Quello è bello il discorso. È quello il bello, perché il bello della musica è esprimersi. Se tu fai musica di altri, fare qualche cosa. C'è gente professionista che fa la cover band, cioè gente laureata, diplomata in conservatorio, che per poter vivere deve campare facendo la cover band. Chi lo dici? Però io faccio pezzi miei, lo campo so. Campi lo stesso. Esatto. Benissimo, sentiamo un altro pezzo da disco stavolta. Che traccia abbiamo scelto, ti ricordi? Sì, aspetta, tira fuori il foglietto. No, le avevi scritti tu. L'avevo scritto, no, non ce l'ho mica io, sono là. Che traccia è, Michele? La numero 5, sentiamo la numero 5, okay. Poi ne parliamo, ok? Va bene, ok. La mia rete è una pista, e mi sento un gladiatore. Una rete su una pista, in un bagno di sudore. La chiesi come porte, quando il disco nero cade. Sono più veloce e forte, e spietato come Ade. Spingo forte sul bastone, mentre cambio direzione. Salto a terra in piedi, che tu neanche più vedi. Siamo sei, siamo uniti, dello stato siamo uniti. L'importante è dare rete, divinità. Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Eccoci qua. È bel finale, ci vorrebbe batterista, si potrebbe dire come l'ha fatto questo finale, un classico finale punk. Eh beh, sì, chiusura poi. Chiusura, bella chiusura. Bam. Esatto, con il botto. Diciamo che questa era una canzone sportiva. Diciamo, in che senso? È una canzone che parla dell'hockey su ghiaccio. Ah, sì, tu ami molto l'hockey su ghiaccio. Sì, sì, sì, è uno sport che mi piace molto, mi sono appassionato da quando mio figlio, che ha 4 anni, ha iniziato a giocare a hockey. Allora. E hai niente, è uno sport. È in pratichissima, sì, sì. Esatto. Ed è uno sport che mi piace molto perché secondo me ci vuole un'abilità e una forza, una prontezza di riflessi non indifferente, molto, molto, molto più che nel calcio che viene seguito dalla maggior parte degli italiani. Dei bambini, esatto. Sì. Esatto. Bello, è una bella cosa tuo figlio, occhi sul ghiaccio. Sì, bello, carino. Mica male. Poi devi vederli perché quando si toccano magari buttano giù l'avversario, si fermano perché gli dispiace di averlo fatto adesso. Poi quando sono grandi si tirano di quelle botte. Sì, esatto. È uno sport tipicamente americano, esatto. Sì, però è molto bello. Molto bello, sì. Sono questi scontri che... Noi siamo abbastanza famosi, noi del Veneto, abbiamo Asiago, sì, abbiamo vero, una squadra vero, molto vero, famosa. È vero, vero. Io vado a vedere il Milano, vabbè. Ecco, detto. Non è fortissimo. Vabbè, però. No, però è una tradizione, come Asiago, dalle nostre parti. Noi voi. Siamo ancora più famosi, allora. Sì, voi sì. Una marea di squadre. Sì, voi no, soprattutto Alto Tesine. Alto Tesine, esatto. Voi siete famosi di queste cose. Sì, ci sono numerose squadre Alto Tesine che... Tu sei anche te l'occhio sul ghiaccio? Ma non particolarmente. Non sai neanche patinare. Non sai neanche patinare. Tu sei di Trento, non sai patinare. Però so sciare. Non so sciare. Vedi, lui sa sciare e lui sa patinare. Sì. Poco da fare. Beh, interessante. Beh, è una cosa molto bella. Sì, volevo fare questa canzone sportiva. Ah, molto è molto americana secondo me questa canzone. Sì, bella. Cosa dici? Sì, sì, sì, bello, fatta. Mica una nota di demerito. No, ci mancherebbe. Beh, appunto. A me piace la musica americana, per quello che mi ispira è essenzialmente la musica che viene dall'America, quindi un complimento, grazie. Hai detto una cosa giusta, sportiva, perché musicalmente è sportiva, cioè sì, perché c'è il coro da stadio. Esatto, vivace, proprio ti prende. 22:40, abbiamo tanto tempo ancora fino alle 24, quante cose potremmo dire, ma dobbiamo suonare qualcosina adesso, che cosa? Allora adesso facciamo un pezzo lento. Ma bene. Parla di dell'amicizia tra un uomo e una donna, che molto spesso viene un po' fraintesa. Esatto. Ok. Fino a quando tu? Non se la ricordava. Non se la ricordava, Matteo. Fino a quando tu ci sei. Sembra fatta la 56, quando i tuoi occhi contrai, mi perdo e non dove, fino a quando tu ci sei, anche se non stiamo insieme, ok, fino a quando mi dirai che lei è più bello dei sogni miei. Te lo giuro, non sono stato mai bene come con nessuna, sai. Mi hanno già mentito dicendo ma è una donna per amico. Ora l'ho capito e so perché. Se ti chiedi come mai, oh yeah. Se ti senti strana più che mai, se tu chiudi gli occhi già vedrai, paura non avrai, fino a quando tu ci sei, anche se non stiamo insieme, ok, fino a quando mi dirai che lei è il più bello dei sogni miei, te lo giuro non sono stato mai come con nessuna, sai. Mi hanno già mentito dicendo ma è una donna per amico. Ora l'ho capito e so perché. Thank you. sai. Mi hanno già mentito dicendo ma è una donna per amico. Ora l'ho capito e so perché. So perché. E so perché. Radio Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, bello sto pezzo, molto lento, cioè lento rispetto alla vostra dimensione che è piuttosto veloce, lento, diciamo romantico tra virgolette, possiamo dire questo, sì, Rai. Sì. E a me è piaciuto molto il giro che ha fatto Matteo. Me lo rifai un secondo questo arteggio che hai fatto? No, dai, vai, vai. Dai, vai. Dai, ancora. Dai, one vai. More time. Perché, ragazzi, la dimensione live è proprio questa. Cambiare totalmente la scaletta, questa è la dimensione live. Esatto. Se no, se facciamo sempre le stesse cose. No, sembra che facciamo il playback. No. No, era bello sto giro qua, a me piaceva molto, allora mi sono permesso di chiedervelo un'altra volta. Sai che Paganini non ripete, questa volta ripetiamolo. Ogni volta i nostri live ci chiedono sempre di live. Alla fine. Raccontami un momento i vostri live. Io ho letto numerosissimi file, abbiamo parlato di tanti live, tu cerchi sempre le date da tutte le parti. Esatto. Come sono i vostri live? I nostri live sono uno spettacolo. Di solito chi viene ai nostri live rimane folgorato e ritorna sempre. Ci seguono, guarda, da tutta Italia. È venuto un ragazzo da Bari, veramente bello. Per seguirci. Queste qua sono le soddisfazioni. Che... A proposito, in streaming ci sentono tutti, anche da Bari, chiaramente. Ci sentono, ma non ci vedono oggi. No, mi sono messo una bella maglietta per l'occasione, ragazzi. Oggi non ci vedono. Ci sono dei problemi. Allora oggi non l'abbiamo fatto. Beh, in ogni caso ci sentono ampiamente. Va bene, sì, sì. Sì, quindi dicevi anche un ragazzo di Bari, quindi c'è una partecipazione non da poco. Sì, guarda, i nostri live sono veramente uno spettacolo. E poi perché mi ripeto, scusa, però è lì che c'è veramente il contatto con il nostro pubblico, senza barriere. Siamo proprio palco e sotto il palco ed è una cosa sola per noi. E vi dà anche la voglia di continuare. Sì, capito? Veramente. Eh sì, soprattutto già smesso da tanto tempo. Certo, perché sono queste le cose che ci fanno andare avanti. Quello, abbiamo prima citato le difficoltà, che sono tante, ma la musica supera tutte le difficoltà. Sì, la passione, la musica. Anche venire qua stasera, esatto. I chilometri sono stati superati. Chi in treno, chi in macchina. Sì, tra l'altro eravamo curiosi di provare questo esperimento. È la prima acustico. Volta. Sì, sì, è la prima volta che facciamo un acustico, primissimo. Sì, ma radio, assurdo. Secondo me la noi radio... siamo abituati con la batteria, amplificatore, roba pesante. Il batterista ci sente, è con noi, anche se non è con noi materialmente, però ci sente chiaramente. Sì, perché la dimensione di una radio, la dimensione live di una radio, secondo me è una cosa molto interessante, nuova, sì. scava. E si sente veramente il gruppo, sembra di essere più intimi nel gruppo. Certo, è vero che sia così. Abbiamo detto, che abbiamo già ripetuto, ma è giusto dirlo un'altra volta, l'acusticità non è una cosa semplice, è una cosa complicata da farsi. Lì si sente veramente come il gruppo. Lì si sente se un gruppo è valido o non è valido, se il gruppo è affiatamento. È affiatato, sì, è vero. Dicevano che basta un cenno, anche te, Rai, fai un cenno ai tuoi colleghi, via, partite. Sì, è così. Sì, infatti la cosa interessante, come ripeto adesso le parole di Rai, no? Che ci siamo trovati subito bene anche come armonia. Tu ti sei inserito immediatamente nella band. Ecco. Sì, è stata una cosa naturale. Ma questo lo si capisce anche nei live, tante volte, anche per il fatto che non possiamo provare quando vogliamo, perché anche il fatto che abitiamo in due città completamente diverse. Lontane. E per cui spesso ci troviamo a fare delle canzoni che non abbiamo avuto modo di provarle filo per segno. Tante volte improvvisiamo. E la cosa bella è che improvvisando ci capiamo. Sì, è vero, dal vivo, vero. E ci divertiamo. Abbiamo improvvisato proprio suonando. Ecco, una cosa che mi hanno detto, mi ha detto una volta un ragazzo, io gli ho detto, guarda, noi quando andiamo sul palco proprio noi ci divertiamo. Quello è importante. Io ho una scarica d'adrenalina e lui mi fa, guarda, si vede proprio che voi vi divertite quando andate sul palco. Ed è proprio l'essenza, oltre ad essere l'essenza del punk, il divertimento, ma è anche l'assenza di una band. Se non c'è divertimento non si va avanti. Esatto. Dopo... la passione, io quando vado sul palco per me è come una droga, non so come dirtelo, guarda, non so come spiegartelo, ma quella scarica d'adrenalina è impagabile. Sì, poi il contatto col pubblico, certo, è fantastico. Fa sparire tutte le tensioni, tutto quello, esatto, che ti porti dietro. Suoni la chitarra, prendi la chitarra e via, chitarra o la batteria o qualsiasi altra cosa. Esatto. Tra l'altro conosco tanti musicisti e non riescono a stare lontani dal palco. Veramente, magari cambiano i gruppi, si sciolgono, però non riescono a non salire sul palco, magari con un altro gruppo o da soli. È una cosa impagabile il palco. Io ho conosciuto un musicista, è venuto 2 o 3 volte, che si chiama Bonadei di Milano, che lui non può far meno di non avere la chitarra in mano, cioè suona sempre, esatto, tutti i momenti, qualche secondo, c'è sempre un momento della giornata in cui la chitarra è in mano. È un'espressione, sì, noi ci esprimiamo con la musica. È vero, è così. C'è chi si esprime facendosi la cresta, sì, o il tatuaggio. Certo, certo, la musica è essenziale. Noi ci esprimiamo con la musica. È una cosa molto bella, secondo me, la musica fa distrugge, cioè allontana certi... umori, esatto, è anche cose, una valvola di sfogo, esatto, vero, esatto, vero, infatti me lo dicono tutti, io facendo un lavoro stressante faccio il tranviere a Milano, però dicono che sono una persona equilibrata, pensa, io che sono quello più dovrei essere quello più fuori di testa dicono che sono quello più equilibrato, perché secondo me è perché ho questa valvola di sfogo, ma anche un'altra valvola, tipo c'è chi va a correre però si sente equilibrato, comunque basta avere una valvola di sfogo. Abbiamo detto che la valvola di sfogo sono i live, e live stasera è un live, state ascoltando Gli Impossibili, che vengono da Milano e da Trento, quindi due città non lontane, anche musicalmente sono lontane Milano e Trento secondo voi? Ma no, noi abbiamo trovato feeling fra, appunto, di noi. No? Non sono lontane assolutamente. Bisogna trovare le persone giuste, non importa di dove sono, ma pensa che conosco un gruppo che hanno i Taug. Sì. Che hanno, se conosce, no, sì, magari sono venuti qua. Non mi ricordo se sono venuti qua, li conosco. Beh, comunque hanno il chitarrista che viene dalla Sicilia, ragazzi. Ah. Cioè, questo da Palermo prende l'aereo e viene fino a Milano per suonare. Una cosa bellissima. Pazzesco. Una cosa bellissima. Fantastico. Veramente. Ok, 22:50, non è ancora il momento della domanda, della famosa domanda, sono le 23. Quella. Vi siete già preparati? Quello io sì, ho scritto, cioè, fatti i compiti. Scritto. Ma il male è quello... Io ve l'ho detto prima, non dovevo dirvelo prima, perché non c'era più tensione. Sì, è vero. Ok, non so, abbiamo in scaletta un altro pezzo, sì. Che numero è, Michele, ti ricordi? La numero, adesso me lo dice Michele. La numero 6, lo sentiamo, cosa dite? Come no? Ok, perfetto. Sfruttamento coloniale, multinazionali che il mondo vogliono controllare. I nostri... Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con gli Impossibili, che sono venuti a trovarci, che presentano la loro musica punk. È la prima volta che ascoltiamo un gruppo punk al 100%, sai, Rai? Spero che non sia l'ultimo. No. Spero di no. Speriamo di tornare noi. Comunque anche altri gruppi. Ma sì, certo. Ci sono di vari. Abbiamo ospitato The Rozer anni fa. Abbiamo parlato di oggi, grandi amiconi. Sì, loro avevano un'etichetta, avevano fondato un genere, un progetto portato avanti, esatto, con molta forza. Poi purtroppo le cose non sono andate. Li capisco, perché sono molte difficoltà in questo ambiente. Abbiamo fatto un disco noi per la Verotte. Quanti anni fa, Raya, ti ricordi? 4-5. Cioè, dei sei, il numero qual era? Il quarto? Il quinto? Il quarto. Sì, ho fatto con loro e niente, una bella esperienza. Poi loro li conosco, sono amici. Mi spiace che si sono sciolti adesso. Però vabbè, comunque ci sono tante difficoltà, cioè li capisco. Beh, è difficile. È un peccato, perché erano una bella, una bella fetta del punk italiano, sì, una bella immagine loro. Come tu giustamente hai detto prima, è difficile. Erano validi. Erano molto validi. È difficile portare avanti un progetto punk dalle nostre parti, molto difficile. Difficilissimo, infatti ci vuole la passione, però molte volte non basta. E niente, dice, è un peccato. Matteo comunque dice proprio sì, è proprio così. Se dice, a proposito, volevo salutare, se mi sentono. Come no? Abbiamo passato tante serate insieme. Come no? Salutiamo la gente che ci sente sicuramente. Via streaming ci si trova dappertutto, dalle Alpi alle Piramidi a Mazamarra e Reno, diceva il poeta una volta tempo fa. Benissimo, diciamo una cosa importante, il vostro sito, Araya. Allora, il sito è, ci dovete cercare, ci dovete cercare, comunque oggi è semplicissimo, sì, è su Facebook, Impossibili, cercate Facebook Impossibili, ci chiedete l'amicizia, ve la diamo, poi ci teniamo in contatto, poi su Twitter, oppure su MySpace, myspace.com/impossibili, se non avete voglia di lì potete sentire subito dei nostri pezzi, sì subito, immediatamente. E se uno vuole fisicamente, anche su scusami, su YouTube, certo, se scrivete gli Impossibili Milano, gli Impossibili punk Milano, insomma ci trovate, ne cliccate uno e vengono fuori tutti i nostri. Se uno vuole senza ritorno il disco fisicamente, cioè proprio in mano, praticamente fisicamente ci contattate, perché ci dovete ricaricare la PayPal e poi noi ve lo spediamo. Bene. Costa 10 euro, ragazzi. Sì, cifra modica, dai. Ci stiamo dentro. Comprese spese postali. Oppure venite ai live. Ecco. Venite ai live, che è meglio. Che è meglio. Prossimo, lo sai, ti ricordi? Prossimo, ne abbiamo il 4 novembre fissato al Palazzo Granaio a Milano. Bene. È un bel posto. Per adesso c'è quello, però ti ripeto, non essendo un gruppo di quelli che seguono i canali tradizionali, praticamente riesci a estrapolare le cose. No, volevo dire, adesso che ho annunciato il nostro sito, che quando abbiamo una data la pubblichiamo subito sul nostro sito, e anche due settimane prima noi possiamo pubblicare una data, visto che non seguiamo i canali tradizionali. Certo, visto che sei il manager di tutto. Esatto, faccio tutto io. Faso tutto me. Cioè, il libretto hai fatto tutto te praticamente. Guarda, il libretto, la copertina me l'hanno regalata. Interna, c'è una mia amica che fa la grafica, mi ha detto te la faccio io, non ti preoccupare, non ti faccio pagare niente. Io ho preso guarda, con l'autoproduzione, dopo i soldi che avevo speso, ho preso la palla al balzo. Bisogna far così, c'è poco da fare. No, tra l'altro qualcuno me l'ha anche criticata questa copertina, però io gli volevo dire, ascolta, questa è gratis. Cosa vuoi? Io l'ho presa. Cosa vuoi, esattamente. Esatto, certa gente, vedi, come dicevo prima, certa gente non capisce i sacrifici che si fanno. Non so, uno fa una band, fa un disco autoprodotto, che bello, perché sì, adesso è difficile trovarlo nei negozi di dischi, perché non esistono i negozi di dischi, purtroppo si stanno scomparendo. Però già pubblicarlo, cioè averlo in mano un disco, è una cosa bellissima. Sì, è una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione per tutti quanti. Poi c'è comunque gente che lo compra. Certo, esiste ancora. No, c'è gente che supporta il gruppo. Cosa ne pensi del ritorno al vinile adesso, Rai? Anche gli altri. A me piace molto, guarda. Io sono un fanatico del vinile, ho un sacco di vinili a casa. A me piace molto il vinile, sono contento che stia ritornando, anche perché lì senti veramente la musica, poi quel fruscio, è fantastico. Claudio, cosa ne pensi te? Dopo parla anche Matteo. Anche io come Raya sono un appassionato del vinile. Ma costa quello nuovo, quelli nuovi stampati costano un quanto costano? Sulle 29 29 costavano meno quando ero ragazzo. Esatto, costavano meno. Ma adesso sono stampati, peso di un certo tipo, ben fatti, però costano un sacco di soldi. Però uno vuole avere l'oggetto vinile, quello è il motivo. Sul vinile potevi lavorarci di più, anche graficamente, copertine più grandi. Certo. Poi ti compravi un vinile, non so, aveva un fascino particolare. Aveva un'emozione, una scarica, te lo portavi a casa, lo mettevi sul piatto. Sì. Era, non so, forse i ragazzi di oggi non le capiscono queste cose, perché non le hanno provate. E te, Matteo, cosa dici? Sei contento? Ma io sono contento. Sei convinto? Di questo? Sì, sì, vabbè, anch'io come penso la maggior parte degli amanti della musica, si è molto amanti anche del vinile, soprattutto perché al di là della canzone che offre è proprio un pezzo da collezione. È vero. E questo forse credo che può essere la risposta allo scaricamento che c'è gratis, anzi illegale, che ti propone la rete. Tu acquistandoti il vinile, ok, c'hai la musica, ma c'hai anche un qualcosa in mano, sì, di valore. Esattamente. Mentre facendo CD è facile scaricarlo, è facile, certo, averlo senza pagarlo, e quindi è una rivincita dell'arte musicale. Sì, perché a proposito di legalità, io scarico alla grande proprio, ragazzi. Io devo dire che sono un pirata, però devo dire che non ha lo stesso fascino, però vabbè, scarico, ragazzi. Io devo dire che ho scaricato il CD di Impossibile. Ma hai piratato a me, ma hai piratato. Noi li avevo originali, li ho scaricati. No, ovviamente rimane un bel sostegno, no, scaricare. Detto, io scarico un sacco di musica. Sì, ma ha detto giustamente Matteo, se uno vuole l'oggetto, cioè il vinile, è un'altra cosa. Cioè, sì, sì, no. È un'altra cosa, fisicamente è una bella cosa. Fantastico. I famosi copertine degli anni 60, quelle copertine di Roger Dean, vi ricordate, quelli degli Yes, erano dei capolavori proprio di pittura, di arte. E quello è un'arte, fare una copertina simile, c'è poco da fare. Fantastico. Adesso facciamo una cosa di questo genere: suoniamo un altro pezzo, poi facciamo la famosa domandina dei 5 dischi da portare su un'isola deserta. Cosa suoniamo? Milano. Ok. Visto che veniamo da Milano, benissimo. Facciamo questo. Ok. 1, 2, 3, 4. Sveglio la mattina stento. In ogni città lo stesso tormento, sarà questa puzza di riscaldamento, dura la vita tra smog e cemento, polveri sottili sopra quei palazzi, frenesia nelle vene di questi pazzi, viviamo uno sull'altro senza mai vedere il cielo. Ma che bella che è Milano, se hai tanti soldi in mano, se tieni chiusi bocca, occhi, orecchie con la mano. Che bella che è Milano, quando lancia una moda è al carro degli idioti, tutti si mettono in coda. Che bella che è Milano, con la prostituzione e avere la sensazione di essere dentro una prigione. Che bella che è Milano, con tutta quella gente e solo la certezza di non contare niente. Sempre in coda da mattina a sera, anche al bar o sulla corriera, nemmeno una persona che sia vera, gente che pensa solo a far carriera. L'unica cosa che qui è in diffusione è un grave stato di depressione, tutti si odiano senza un perché. Ma che bella che è Milano, c'hai tanti soldi in mano, se tieni chiusi bocca, occhi, orecchie con la mano. Che bella che è Milano, quando lancia una moda e al carro degli idioti tutti si mettono in coda. Che bella che è Milano, con la prostituzione e avere la sensazione di essere dentro una prigione. Che bella che è Milano, con tutta quella gente e solo la certezza di non contare niente. Gente è omologata, sembra normale ma è disperata, ognuno pensa soltanto per sé. Ma che bella che è Milano, c'hai tanti soldi in mano, se tieni chiusi bocca, occhi, orecchie con la mano. Che bella che è Milano, quando lancia una moda è al carro degli idioti, tutti si mettono in coda. Che bella che è Milano, con senza istruzione e avere la sensazione di essere dentro una prigione. Che bella che è Milano, con tutta quella gente e solo la certezza di non contare. Ma che bella che è Milano, c'hai tanti soldi in mano, se tieni chiusi bocca, occhi, orecchie con la mano. Che bella che è Milano, quando lancia una moda è a capo degli idioti, tutti si mettono in coda. Che bella che è Milano, con la prostituzione, avere la sensazione di essere dentro una prigione. Che bella che è Milano con tutta quella gente, e solo la certezza di non contare niente. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ragazzi, un pezzo simile senza respiro è una cosa impossibile, vero? Radio? Non sudate, infatti. È impossibile. Mi sono incartato un pezzettino. Appunto, sono incartato un pezzettino, ma questo è il bello del vivo. No, dai. È bello. Cioè, il bello del live. Esattamente, una performance non da poco. Pezzo tiratissimo, perché è giusto che sia così. Sì, senza respiro, appunto. Senza respiro. Esattamente proprio così. Un critico ha scritto: chitarra non arzigogolata, chitarre distorte e dure, batteria 4/4, basso pneumatico e via, e voce Raya. Così, esatto. È vero. Eh sì, siamo così. Questa è l'essenza, siamo del un punk. Treno, siamo un treno. Un treno, sì, l'essenza del punk è questa. Non è punk se non è così. Infatti non per nulla ho intitolato l'album Senza Ritorno. Appunto. È l'essenza del nostro gruppo. Esattamente. Ok, 23:05, adesso ci riposiamo un secondo e parliamo dei famosi 5 dischi da portare su un'isola deserta, che purtroppo voi sapete già, anche se la regola di Rockway non è proprio così, però voi sapete già da circa 20 minuti. Quindi ragazzi, loro hanno già predisposto tutte le scalette scritte praticamente. Possiamo chi coprire, comincia magari? Chi comincia? Allora, fai te, Claudio. Sì, bassista, allora Claudio. Claudio bassista. Sicuramente, rubato anche agli altri due. It's Alive dei Ramones. Volevo fare una premessa. Volevo fare una premessa prima che dici dischi. Che avevamo scelto tutti e tre It's Alive. Perfetto. Che diciamo che è l'album che ci ha ispirato tutti quanti. Perché ci ha insegnato a suonare. Ci accomuna. E che ci ha insegnato a suonare. Ho imparato a suonare la chitarra su It's Alive. Idem. Poi ho scelto Love Song for the Retarded dei Queers. Chi sono i Queers? Non li conosco. Queers è un gruppo storico americano. Di? Dovrebbe essere di Boston, mi pare. Musicalmente punk rock. Sì. E molto duri. Vicini a Ramones. Sì. Forse non erano durissimi, però secondo me. No, ma neanche i Queers. Mm. Qualche canzone, anche i Queers, logicamente, un po' più dura, ma fondamentalmente più punk rock melodico, bubblegum. Sì, ho capito. Ecco, loro, quindi i Queers con Love Song for the Retarded, e subito dopo gli Screeching Weasel, My Brain Hurts. Ve li conosco. Perché insieme a Ramones e appunto a Queers, la triade. Esatto, la famosa triade del punk rock. Del punk rock. Dopo ho scelto un progetto parallelo di Ben Weasel, di Screeching Weasel, il cantante, e di Vapid, che sono i Riverdales. Ecco, questo gruppo qua è proprio tipicamente proprio ispirato ai Ramones al 100%. Infatti suonano anche con la loro strumentazione. Sì, okay. Sì. Non è una cosa di Ramones. No, è esatto. E dopo un album della mia adolescenza, NoFX, Punk in Drublic. Però anche sì. Quello è certo. Ecco, quelli sono molto interessanti, secondo me. Sì, ecco, forse qua erano ancora, diciamo, non così, brutto dire commerciale. Erano meno appetibili di una dia. Ecco, sì, esatto, esatto. Il momento più importante. Esatto, dopo. Per me è il loro album migliore, sarà il loro album migliore, secondo me. Quindi il bassista. Facciamo, vuoi parlare te, sì, Rai, ok, il nostro vocalist. Allora, a me i dischi che mi porterei su un'isola deserta sono... che è l'isola di Rockaway, non l'isola dei famosi, tenendo conto che è importante sottolinearlo. Sì. Sono Walk Among Us dei Misfits. Come mai hai citato sta band qua? Perché ti piacciono? Perché mi piace. Perché fanno anche un genere un po'. Riprendono dei B-movie, sì. Un po' un horror di serie B che ho ripreso anche nei miei testi. Bene. Quindi questi mi hanno ispirato. Ti hanno ispirato parecchio. Poi Wiggle, non so come si dice, Wiggle degli Screeching Weasel. Sì, bello. Che quando ho sentito quel disco mi ha dato l'impulso per creare Gli Impossibili. Certo. Non pensavo che si potesse creare questa musica. Beh, 15 anni fa si parla allora. Sì. Esattamente. Parecchio. Rocket to Russia dei Ramones. Quelli arrivano sempre. Quelli arrivano sempre. Ne ho scelti addirittura due io. Perfetto. Suffer dei Bad Religion. Adesso un'altra band che ti ha molto ispirato, sei molto avvicinato a loro. Sì. Band corposa, band che ha però hanno segnato la mia adolescenza. Sì. I Bad Religion, quindi è inevitabile anche quelli in tre minuti scarsi pezzi. Di energia al fumicotone. Sì, c'è sì. Poco da fare. Quelli hanno segnato la mia adolescenza, è impossibile che non entrino nei miei pezzi. Certo. Anzi, ho consumato praticamente i loro. Una volta c'era la cassetta. Esatto, una volta la consumavo. Le cassette, sì. Poi avevo scelto Ramones, Mondo Bizzarro. Mm, come mai questo album di Ramones? Sì, è un po' diverso dai primi. A me piacevano i primi album di Ramones. Un po' snobbavo gli album che sono venuti negli anni dopo. Poi ho sentito Mondo Bizzarro e devo ammettere che è un gran bel album, un po' anche un po' più elaborato degli altri, molto bello. Ma poi c'è CJ. Io all'inizio non lo sopportavo perché era venuto al posto di Didi. Esatto. Però devo dire che il suo posto nei Ramones se l'è guadagnato. Dobbiamo sottolineare una cosa: i Ramones sembrano facili, sembrano immediati. Sì, sono immediati e facili, ma non è per niente vero che sono tanto facili. È vero. Insomma, rifarli. Io guarda, volevo appunto fare un gruppo tale quale i Ramones e non è venuto. È venuto da roba alle impossibili. Cioè, no, è impossibile. Certe cose, vitale. Gruppo talmente grande perché hanno creato il punk. Qualcuno dice ci sono state i Clash, ci sono stati anche i altri gruppi, il famoso 77 sì, di Tolkien. Sì, ma Ramones quando hanno iniziato loro c'era una roba fuori dal mondo. Sì, i Clash erano di un'altra parte del mar, sì, gli inglesi. Sì, sì. I Ramones erano americani. Però sono importanti, c'è poco da fare. Abbiamo sottolineato un sacco di volte. Il punk nasce da loro, anche se qualcuno ha parlato di Tolkien's 77, un altro disco importante, fondamentale. Però ragazzi, Ramones ci sono stati tantissimi gruppi si sono ispirati a loro, tantissima gente parla con i Ramones sotto altri spogli musicalmente parlando, c'è poco da fare. Sì, guarda, quando li vedi poi se pensi che facevano questa musica nel 77, appunto, era una roba sconvolgente, all'inizio di tutto. Sì, bene, ne hai fatto tutti quanti? No, basta, io sono a posto. Il nostro chitarrista Matteo. Bene, io non può mancare un disco degli Screeching Wizard. Chiaro. Ma amate tantissimo questa band voi. Sì, sì. Sì, molto perché non è conosciutissima dalle nostre parti. Ma il genio di Ben Weasel è infinito. Ho capito. Lui ogni ha tante sfaccettature. Sì, nonostante abbia fatto decine di album. Certo. Ma mette sempre la sua impronta, praticamente. Sempre, esatto. Sempre un pioniere di qualche riff strano, di qualche pioniere. Tu che sei un chitarrista, ti sei ispirato in alcuni momenti ai suoi riff strani oppure no? Tantissimo. Sì, Ben Weasel, sì, la musica che poi passa attraverso Ben Weasel, quindi non solo Screeching Weasel ma anche River Days. Sì. O comunque anche progetti da solista che ha fatto più avanti. Comunque sono il filtro che sì, c'è fra il mondo lo specchio di certe cose e quello che viene fuori da me stesso. Chiaro. Se non ci fosse Ben Weasel penso che riuscirei a fare tutt'altro che punk. Non so come definirlo, un po' un faro nella notte tempestosa. Poeta, diciamo in poesia. Ok, numero 2. E quindi ho scelto Imo. Un disco non conosciuto come magari Wiggle o My Brain Hurts, però forse è un disco ancor più elaborato. Sì, ancor più strano, interessante. Ok. E quindi questo di Screeching Weasel. Già stati nominati i NoFX e io ho scelto The Decline. Quindi io ho sentito più di un disco di loro, ma in alcuni momenti sono durissimi a mio parere. Ma proprio duri, non c'è soluzione di continuità. In altri momenti no, ma in alcuni momenti sono, posso dire, impossibili da ascoltare. Beh, questo disco non è altro che una canzone di 18 minuti. Ecco, appunto, vedi. E basta, è solo questo. Anche il buon Franco Battiato all'epoca aveva fatto una canzone di 18 minuti, facciata di Michel Gladiator. Voi eravate giovani, siete giovani, anche all'epoca eravate giovani. Però Messie Gladiator durava una facciata, durava non so 10-12 minuti, l'altra altri 10-12 minuti erano dei suoni, dei lunghi suoni e basta. Sai che lui ha vinto il premio Stockhausen, quindi Battiato mica uno cioè esplorava e sulle corde di Ares sperimentava sulle corde di Ares, che il suo terzo disco è una sperimentazione continua. Fetus, Polluso, cioè non è, dopo chiaramente ha fatto quel grande disco da un milione di copie, ha fatto la svolta, però ragazzi, sperimentava anche lui. Sì. Quindi, e quindi questo decline è una poesia, ogni volta che l'ascolti è sempre impossibile, no, che una, ci siano canzoni punk di 18 minuti, perché si parlava prima sì, di 3 minuti scarsi, punk è, loro invece sono in riusciti a, a creare quest'opera d'arte che secondo me non può non, certo, può, non, non può non mancare. Poi penso che mi porterei dietro sicuramente London Calling dei Clash. Ah, bene, bene. Parliamo un momento di Clash, questo fantomatico doppio album, doppio vinile. Una volta era, esatto, doppio vinile. In CD mi sembra doppio deluxe, è doppio anche quello. È una cosa favolosa, London Calling dei Clash. Beh, c'è Joe Strummer che ha un potere. Ha superato il punk, ha fatto la svolta, sì, del punk. Sì, sì. Sì, anche perché poi dopo che ha lasciato i Clash comunque ha, ha intrapreso un sacco di altri progetti. Vero. Molto molto interessanti, fino ad arrivare ai Mescaleros che, sì, certo, con cui purtroppo ha dovuto concludere. Però, quindi London Calling. London Calling perché è quella, è quella via di mezzo di Joe Strummer fra l'inizio diretto, no, sì, di The Clash proprio e poi la fine sperimentalissimo, un insieme di tanti generi, sì, London Calling. Diciamo la, sì, maturità forse lì, no? Anche se l'album il più grande maturo, successo forse americano non ha avuto London Calling, ha avuto un disco non minore, un altro disco non era London Calling, però London Calling nei famosi 500 dischi di Rolling Stone ha un bella, una bella posizione, povero da fare, un grandissimo disco. Pietra miliare. Esattamente. Poi mi prenderei due dischi italiani. Quindi, che, quali? Guarda, uno è di un gruppo che purtroppo di recente si è sciolto. Mm. È un gruppo trentino. Ah. E così dai, portiamo anche un po' di. Giusto, sì, così. Sono i Razzi Totali. Ah. Io l'ho sentito, però i Razzi. Ecco, loro hanno iniziato. Vabbè, hanno finito purtroppo con questo. Con questo, questo lavoro. Questo che disco. È un, si avvicina veramente al capolavoro. Perché anche loro sono riusciti a, a sperimentare cose andando al di là dei schemi fissi che detta questo genere. Certo. E secondo me è molto molto interessante come lavoro. E poi vabbè, facciamo un po' i ruffiani, mi porto dietro in Possimania, che comunque è comunque una, è una storia, album, È, è una storia miliare del punk che ho scaricato da internet può, e non si può non portarsi dietro, ho piratato. No, anche perché io provengo dopo un passato di fan degli Impossibili. Ah, vedi. Quindi, e poi sei arrivato dopo il passato di fan, sei arrivato direttamente, esatto, dentro gli Impossibili. Quindi per me Impossimania è stato un album che mi ha fatto compagnia nella mia adolescenza, non indifferentemente. È una cosa, ricordo, positiva, Rai, cosa dici? Mi ricordo che sono contento di aver fatto qualcosa di buono nella mia vita. Mi ricordo che l'ascoltavo con mio fratellino, all'epoca fratellino, e adesso ci troviamo a cantare, sì, magari sul palco insieme. Sì, era un album un po' particolare, parlava di tutte queste ragazze strane, robotiche. E niente, era un album particolare. Poi, insomma, era. Mi aveva detto un mio amico che ai tempi, quando è uscito in Possimania, solo noi suonavamo in quel modo. Vedi. Quindi, una cosa positiva. Nel nostro piccolo, forse abbiamo creato qualcosa. Abbiamo un progetto, sicuramente. Esatto. Un progetto che va avanti da sei dischi, sì, praticamente. Quello sì. 23:17, adesso cosa facciamo? Sentiamo un pezzo di una ragazza, titolo di una ragazza, mi pare. Laura. Laura parla di Laura, che è veramente così. Sentitela. Perfetto, la sentiamo allora. Ma sa la vita come me. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, sono le 23:20 in perfetto orario, è chiaramente sempre dal vivo e Araya sta facendo un giochetto di prestigio, sta ricordando tutti i dischi che ha, che praticamente gli impossibili hanno inciso. Vai Araya, adesso ti sei ricordato. Tanti. Vabbè, abbiamo inciso nel 94 un demo tape che si intitolava Punk Rock. E avevamo inciso così alla buona, presa diretta. Presa diretta. Ancora qualcuno se lo ricorda. Me lo chiedono. Vedi, vedi. Quello non c'è più, esaurito. 7 pollici, poi De Rosa era anche. Ah, anche 7 pollici. Quindi quello è esaurito, quello non si trova più. Esatto. Poi abbiamo fatto Impossimania. Che è molto amato dai vostri molto fan. Molto amato, che è il primo album che abbiamo fatto nel, 90, nel 96. 96. Poi Contro Tutti, a seguire Contro Tutti. Poi Ribelli e Impossibili. Ve le suoniamo ancora. Poi i due autoprodotti che sono gli ultimi due, Alcol e Furore e Senza Ritorno. E Senza Ritorno, okay, che è l'ultimo. Poi abbiamo fatto due compilation storiche che sono Oegen Silvio, in cui c'era il pezzo Cani Blu, e Flower Punk Rock, che raggruppava un po' tutto il movimento, diciamo, che c'era all'epoca. E far poi con due pezzi, Sul Sedile con Te e Odio lo Straight Edge. Perfetto. Se uno volesse ipoteticamente, non ipoteticamente, riprendere le vecchie cose vostre, tu hai detto che si trova qualcosa di vecchio vostro. Sì, ci possono contattare direttamente tramite il sito e le spediamo le CD originali. Hai ancora qualcosa? Abbiamo ancora qualcosa. Possiamo spedirlo. se ce lo richiedete, costano 5 euro. Quindi è una cosa assolutamente abbordabile. Oppure ai live. C'è il banchetto. C'è il banchetto sempre, con le magliette. E che banchetto. È bello così, no? È l'unico sistema, visto che i dischi non si vendono più, è l'unico sistema è questo, venderli mediante i concerti dal vivo, quel famoso banchetto. Ok, 23:22, facciamo sentire un pezzo live adesso. Cosa? Va bene, allora adesso facciamo un lento che fa parte del primo album che ho inciso e si chiama Debora. Ok. 1, 2, 3, 4. Viale Mazzini al numero 7, aspettami lì, ho fumato un milione di sigarette, il semaforo, ho visto 200 verdi scattare, non ti aspetterò, in questa notte io posso sognare, ehi ragazza sai, ora più che mai, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, ora e sempre, nei sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, ora e sempre, nei sogni miei. Al mercoledì io vado in palestra vicino alla scuola, il ritrovo è lì, io sto con gli amici, tu sei ancora sola, ma io ti dirò, una persona baby tu l'hai trovata, se vero non so, questa notte io ti ho sognata, ehi ragazza sai, ora più che mai, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni, Debora tu sei, per sempre nei sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei, ora e sempre nei sogni miei, Debora tu sei, dentro i sogni miei, Debora tu sei. Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Da Laura siamo passati a Deborah. Deborah non è recente come Laura musicalmente, vero Rai? Abbiamo detto di tempo fa Deborah. Sì, sì, sì, Deborah è del primo album. Come lo fate dal vivo? Adesso avete fatto in versione assolutamente acustica, chitarra, basso e voce tua. Dal vivo con la batteria cosa succede? Stop and go a ripetizione oppure no? Sì? Beh sì, ci sono degli stacchi, fa delle cose sull'ultimo, fa prubum, pa, fa delle cose sul team, insomma fa qualche stacco. Quindi non assolutamente acustica dal vivo. No. Amplificatore a chiodo. E... Anche Deborah. Sempre. Anche Deborah, sì sì, distorta. Distorta al massimo. Qual è il pezzo che viene richiesto più dei fans in un certo momento del concerto? Lo stesso Deborah? Diciamo i pezzi del primo album, sono quelli più amati dal nostro pubblico. Non possiamo non farli quando... li cambiate rispetto a come erano prima oppure c'è una vicinanza di pezzi originali? Cerchiamo di tenerli come gli originali, anche perché la gente se li ricorda in quel modo. Forse uno o due forse ne abbiamo cambiati, no? No, li facciamo poco. Dicono di identici. No, identici, identici come no. Sì, perché sì. Dov'è? Quello è il marchio di fabbrica, eh? Esatto. La cosa molto la gente li vuole sentire così e li facciamo così, certamente. Quindi Deborah, quindi Laura, quindi l'universo femminile, tu hai giustamente parlato di persona in carne ed ossa e anche cibernetiche. Sì, sono un mix di tutto. Diciamo anche la mia ragazza 3.20, diciamo che è una specie di una rivisitazione della storia di Frankenstein. Ah, ok. Cioè questo tizio che cerca di costruire un ragazzo, un po' sfigato. Un po' ironica però, diciamo. Sì. L'ironia ci vuole. Sì, ci vuole. Esattamente. Essenziale. È essenziale per tutto e anche in certi momenti, decisamente. E musicalmente sempre dura, non c'è niente da fare, non c'è un momento di rilassatezza. Noi ci muoviamo sempre nell'ambito del punk. Ma il punk qualche volta perché, è anche melodico, eh? Perché vabbè Offspring esatto. Ed altro genere è che il nostro è abbastanza melodico. Sì, assolutamente melodico, anche il vostro decisamente, anche il vostro melodico, no, però qualche volta non vi fermate, accelerate. No, no, siamo un treno lanciato noi. Come abbiamo detto, A noi piace, diciamo che è l'unica musica che ci dà la scossa e la carica. E quindi non abbiamo provato anche a fare altri generi. Io ho provato a suonare anche in un gruppo ska. Pochi lo sanno. Però sono andato poco dopo, non sono più andato perché alle prove, perché non mi dava quella l'energia. L'energia è l'unica musica che mi dava. Cioè, tu puoi sputare musicalmente subito tutto quanto. Esatto. Non c'è niente di sincero come il punk. Perché ti urla la verità in faccia. Sì, esattamente. Ho detto sputare nel senso positivo, negativo. Esatto. Assolutamente. Perché il punk è così anche. Esatto, urlare la verità. Urlare, dare proprio tutto immediatamente. Esatto. Massimo dell'energia in due minuti. Certo, è così. Però poi siete molto stanchi a fare una cosa simile. Dai, ce la facciamo, concerti di due ore. Però ce la facciamo perché te l'ho detto, è una specie di droga. Sì, ma c'è un momento di riporto un pezzo e l'altro? No, tutte attaccate. Incredibile. Guarda che devi vedere un nostro live, te l'ho detto. Certo. Anzi, forse abbiamo Matteo, forse. Sì, stiamo aspettando una risposta. Verso novembre, no, sì, no, verso la seconda ottobre. Metà di ottobre si penserebbe venire qui a Padova. Siamo in contatto e forse vediamo se riusciamo a portare in porto la faccenda. Due ore secche di musica esplosiva. Anche di più. Sì. Beh, pezzi ne avete tanti. Impossibili, sono famosi per andare avanti a oltranza. No, perché la gente non se ne va. Esatto. È bello. Vogliono continuare, che continuiamo a suonare e noi li accontentiamo. Esatto. Sì. Perché non si anche perché ci divertiamo anche noi. Ma ne avete tanti pezzi in giro, no? Riempite due ore senza problemi. Sì, due ore forse no, perché due ore con bis. Due ore con bis, sono già tante due ore, no? Cioè, dobbiamo sottolineare una cosa e ribadire che i pezzi punk durano tre minuti, esatto, ragazzi. Esatto. E quindi se tre minuti fanno due ore, non è mica semplice, è una cosa che ci vuole tanta energia, ecco, questo sì. Possiamo sicuramente. Quella non ci manca. L'energia è fondamentale in tutta la musica, ma nel punk ancora di più. C'è poco da fare. 23:30, non so cosa ci sia in scaletta, ma facciamo un altro pezzo dal vivo, dai, al limite, se non siete stanchi. È un pezzo che viene ancora da Impossimania, questo è il primo album. Per chi si sente comincia a crescere ma non si sente ancora bambino dentro, okay. Esatto. Non puoi restare per sempre bambino. Perfetto. Ero un bambino quando ho detto da grande sarò un dottore, un avvocato, ancora adesso non lo so. mio futuro. È presente il mio futuro, è presente solo un duro. È la falsità, tutto quello che ti chiedo sono un po' di libertà, tutto quello che io voglio è la fantasia, se la nostra comunione non andare via, non puoi, non puoi, non puoi restare per sempre bambino, tu non puoi, non puoi, non puoi restare per sempre bambino. Quello che sentivo in una canzone che potrà anche non piacerti, ero dedicata a te, dedicata a tutti quelli che sono come me, dedicata ai sognatori di un mondo che non c'è. Non puoi, non puoi, non puoi restare per sempre bambino, tu non puoi, non puoi, non puoi restare per sempre bambino. Ora tu non puoi, non puoi restare, non puoi, per sempre bambino. Non puoi restare, non puoi restare per sempre bambino. Ora tu non puoi, non puoi restare, non puoi, per sempre bambino. Non puoi restare, non puoi restare, per sempre ora tu non puoi, non puoi restare, non puoi, per sempre bambino. Non puoi restare, non puoi restare, per sempre ora tu non puoi. Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ne abbiamo altri? Sì, sì, ne avete ancora, ne avete ancora. Sì, stanno, i ragazzi erano in discussione, se hanno altri pezzi, ancora fino a mezzanotte ce l'abbiamo. Una critica, un critico, un giornalista ha scritto che si può avvicinare in alcuni momenti al glam dei New York Dolls. Cosa ne pensa Raya e gli altri del New York Dolls, gruppo straordinario? Il nostro sì, no, c'è qualche addendo, qualche piccolo collegamento alle New York. Ma guarda, non ci avevo mai pensato. Veramente hai detto una sì, per come ci vestiamo, forse può dare. Come vi vestite quando no, siete sul palco? No, scherza, no, scherza, no, normale. No, no, normali, assolutamente. No, è un grande gruppo. Sì, no, no, mi stupisce questa cosa. Questo, non ci avevo mai pensato. Questo filo di congiunzione. Sì. I Ramones hanno iniziato ascoltando i New York Dolls. Esatto, perciò quindi penso che sicuramente qualche analogia. Penso che esatto, sia partito tutto da lì alla fine. È sempre quella. Avremo anche noi. Dolls è un gruppo straordinario. Si sono riformati di recente. Sì, però senza Johnny Thunders non è più la stessa cosa. Poi cioè, insomma, anche Dave Kane, no, come si chiama il bassista? Kane, che non mi ricordo più, no, forse quello c'è ancora. Sì, quello c'è ancora. Sylvain, allora sì, è morto. Sì, ecco. Però non quei revival lì, e dopo tutti questi lasciano anni, lasciano il tempo che trovano. Esatto. Sì. Cioè, noi ci siamo trovati tutti e tre a andare a vedere 2 anni fa i Sex Pistols a Torino. Sì. Come sei stato? Sì, no, dimmi. No, allora Johnny Rotten è sempre Johnny Rotten. Sì, ecco, sì, esatto. Noi se il personaggio Johnny aveva un po' la pancetta. Ma tutti ma no, beh, Glenn Matrox si li portava bene i suoi anni, diciamo. No, effettivamente sono logicamente sono invecchiati, certo. Però cioè, si vede che nonostante siano punk, esatto, però sanno come gestire tutta la situazione, sono abituati insomma ai riflettori. Certo, qualcuno ha detto, qualche maligno all'epoca diceva li hanno spinti perché avevano bisogno di un ritorno loro e tutte queste cose qua. Nel 96 in una casa hanno fatto il tour solo per i soldi, Flight to Lucre Tour, perciò sì, era proprio dichiarato. Sì, proprio dichiarato. È stato onesto. Esatto, infatti no, l'ha detto. Questo è bello del punk, no? È stato onesto. Appunto, l'ha detto. Però avevamo bisogno di soldi, ha detto. È bello che il punk con quei Sex Pistols è diventato molto danaroso per le case discografiche. All'epoca quando avevano fatto Nevermind the Bollocks, hanno scoppiato tutto quanto, hanno distrutto tutto. Distrutto da classifica, sono andati in classifica, ragazzi. Numero 1 in Inghilterra all'epoca quell'album assolutamente sì, il numero uno, cioè, una rivoluzione, una rivoluzione. Era stato boicottato, sarebbe stato numero uno, però ne avevano fatto non figurava sì, il numero uno, però, perché appunto tendenzialmente era il numero uno perché aveva venduto un sacco di copie all'epoca. Sì, è vero, un po' di anni dopo per la tournée che tu hai citato, li hai visti. Sì, è un'altra cosa, però il fascino rimane sempre. Ah, beh, chiaro, abbiamo visto un gruppo, penso che ha fatto la storia comunque della musica, insomma. Nonostante tutto, nonostante gli anni, nonostante tutti i trascorsi e tutto il resto, tutto quello che le case discografiche hanno cercato di controllare un po' il fenomeno per farci soldi, ma secondo me è un fenomeno incontrollabile il punk. E vedi, però adesso il punk di adesso, almeno il punk di adesso è un punk pseudomelodico, un punk, non dico da classifica, perché in Green Day non sono, è un bel gruppo, però i primi Green Day erano un pelo diversi. Io sono andato a vederli. Un pelo diversi. Ancora prima che fermassero per la casa discografica. Poi hanno fatto milioni di copie di quel disco meraviglioso, finché si vuole, perché è piaciuto a tutti, anche a chi non è punketaro. Esattamente, però insomma, le cose erano un po' diverse. D'altronde, quando si commercializza il punk, boh, alla fine secondo me perde un po' di fascino. Sì, ma certi pezzi, anche se sono commerciali, sono molto belli. Sì, sì, sicuramente. Sì. Anche gli Offspring, stessa cosa. Sì, oddio, gli Offspring sono un po' cambiati, penso. Sì, molto cambiati. Dai primi album, li ricordo, quelli che gli ultimi che sono usciti. Lo so, c'è una purtroppo. I Green Day, tutto sommato, invece, diciamo che è vero, si sono sicuramente ammorbiditi. Certo. Però bene o male, come tipo di musica e genere, quel melodico, così loro hanno sempre seguito un po' quella linea così. Dopo, logicamente, per il mercato hanno dovuto ammorbidirsi, logicamente, però non dico sono stati fedeli alla loro linea, ma comunque forse un po' più degli Offspring. Dagli Offspring proprio hanno, diciamo, sì, quando avevano firmato per la major, tra l'altro, i Green Day non avevano cambiato il loro stile. Infatti non è stato... io avevo i primi dischi loro, certo. Sì, suonano quale, uguali, ma sì, è per stato quel grandissimo successo per fare cambiare tutto alla major stessa. Quella, non so, la major è stata molto contenta di quel successo mondiale, una cosa incredibile. Quel disco là ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Ok, 23:37. Io spero che anche voi di scalare le classifiche di tutto il mondo. Cosa dite? Non si sa mai, non si sa mai. Non si sa mai. Bisogna sempre avere fiducia nelle cose. Qua in Italia penso sia difficile scalare. In Italia è difficile. Sono 15 anni di un'orata carriera e non va bene. Così vuol dire che sono orgoglioso. Benissimo, ok, andiamo avanti. 23:38, abbiamo ancora una ventina di minuti verso la fine. Non so se abbiamo scelto un altro pezzo da scaletta da disco, ti ricordi per caso? Possiamo mettere, facciamo una cosa, tagliamo la testa al toro. L'ultimo pezzo, mettiamo l'ultimo pezzo, così parliamo della cover che avete fatto di Battiato. Sì, sì, te lo volevo dire. Infatti. Ecco. Vuoi che parliamo un momento dell'idea? No, parliamo dopo, adesso sentiamo l'ultimo pezzo. Ah, sì, è una cover di Battiato. Sì, no, ma no, sto parlando. Sto parlando, sì, adesso andiamo. Voglio vederti danzare. Voglio vederti danzare, perché il Battiato di quel Voglio vederti danzare, quel Battiato l'hai scelto? Ma perché Battiato è un grande pensatore, un grande artista, e ho voluto con questa canzone fargli un mio tributo personale. Sì. C'è chi non la digerisce questa cover, me l'hanno criticata. Sì? Se in realtà l'hanno criticata. E c'è chi l'adora. Questa è una caratteristica un po' degli impossibili, diciamo. Non abbiamo mezze misure, c'è chi ci odia, c'è chi ci ama, alla follia. Te l'hanno criticata, vuol dire che l'hanno sentita, vuol dire che ha scosso qualcosa. Le critiche sono anche positive, se vengono le critiche, secondo me. Vuol dire che la gente l'ha sentita, al di là sentita, che può essere positiva o negativa, non importa, l'hanno sentita. Sì, l'hanno sentita, qualcuno critiche positive, qualcuno critiche negative, perché loro praticamente, siccome è un mostro sacro, un po', certo, gliel'ho toccata, allora si sono un po' indispettiti. Però questa è una caratteristica anche di un gruppo punk, che è libero di fare quello che vuole. Io volevo fare la cover di Battiato perché secondo me è un grande artista e l'ho fatta. E la sentiamo. Può piacere o non piacere, però io l'ho fatta. Perfetto. Ragazzi. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i tapisci torno che girano sulle spine dorsali. Al suono di cavi delle catacari e giro tutti intorno alla stanza mentre si danza, danza, e giro tutta la stanza mentre si danza, danza, e giro tutti intorno alla stanza mentre si danza, danza, e giro tutta la stanza mentre viennese. Stiamo piacevolmente sentendo e conversando con gli impossibili Matteo, Claudio e Araia. Il nostro batterista ci sta sentendo via internet. Al Fumicotone questa cover di Battiato. Al Fumicotone. Ti piace? Bellissima secondo me. E tutti, e tutta, io mi immagino tutta la gente sotto il palco che canta, che si muove. Ah che... sì, guarda, i nostri concerti sono uno spettacolo, eh. Appena annuncio i pezzi si sente un boato, ah. Sì, vengono sul palco. Sono talmente, alle volte c'è talmente tanta gente sul palco che non riusciamo più nemmeno a suonare. Mi dicevi... è fantastico, quando è così guarda, per me è il massimo, quando c'è totalmente il caos perché la gente si diverte. Certo, vuol dire che la gente sente e ricepisce. Poi mi piace che la gente salga sul palco. È vero. Ad alcuni musicisti dà fastidio, invece io sono favorevole, a me piace, perché c'è più contatto. Certo, e mi dicevi che mentre il pezzo andava con questa cover la gente proprio non riusciva a farti neanche fare le note praticamente, talmente era la confusione, bella confusione da sentire, cioè voleva cantare con voi. Sì, sì, esatto, venire su, cantare tutti insieme al microfono, tutti sudati, tutti insieme, fantastico. Bello, bello. E questo è il pezzo finale del concerto oppure no? No, di solito finiamo con Cani Blu, okay. Che è un pezzo, storico vostro. Storico. Sì, sì, esattamente. Sì. Però è un pezzo centrale anche questo. Insomma. Sì, questo qua, sì. È un fulcro della scaletta. Della scaletta. Non può mancare. Ma benissimo, 23:45, abbiamo circa 10 minuti alla fine, però abbiamo tempo per sentire ancora qualcosa. Che cosa Arai et Company stasera? Quale facciamo adesso? Su sedile con te, allora. Dai, su sedile con te, che è andata su una compilation. È un pezzo che ci ha resi famosi. Sì, il nostro piccolo. Esattamente. Famosi, ok. Ok. 1, 2, 3, 4. Su sedile con te, sulla macchina della mia famiglia. Su sedile con te, sì signora, su quella di sua figlia. Su sedile con te, sì ma fino alle 11:09. Su sedile con te, sento caldo anche se fuori piove. Oh bebe, conto le ore che batte. cuore per te. Sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, tra volante e acceleratore, sul sedile con te, tuo fratello nel retrovisore, sul sedile con te, sei sicuro, ti dico che è quello, sul sedile con te, mi manena tuo enorme fratello, beve, conto le ore che batte il mio cuore per te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te, sul sedile con te. Blu Radio Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Dobbiamo sottolineare una cosa: questo non era un pezzo facile, cioè l'economia del punk è sempre quella, il riff è sempre quello, vicino a quello, però l'incastro delle tre voci non è mica semplice, E c'era questa cosa di incrociare le voci. Avete incrociato le voci, non è, ragazzi, non è mica una cosa da poco. È una cosa che ci caratterizza anche questa. Esatto, ho visto Claudio che era un... Ma Claudio, è vero così? Avete fatto bene, secondo me era positivo. Tu sì. Sei stato un po' perplesso. Ma no, perché in quanto a voci, soprattutto per i cori, non è che siamo delle... diciamo così. No, stavolta vi siete comportati. Sì, sì, secondo me sì. No, è bene, allora. Sicuramente più difficile farla qui in acustico. Cioè, sì, quello esatto, sicuro. Anche sì, perché sì. Quello che sentiamo noi non è proprio la tonalità perfetta, quindi si è difficile anche per noi calibrare le tonalità e le voci. Chiaramente tutto gira attorno a un'acustica. Certo. Sia per l'esterno, per il gruppo, per il pubblico, ma soprattutto per noi, perché se non abbiamo un buon ritorno con una buona calibratura di volumi, sia difficile anche suonare, soprattutto far cori sovrapposti, che è la cosa che insomma ci impegna di più. Esatto. Non è semplice ed è estremamente complicato far cori sovrapposti. E tu giustamente hai detto l'acustico è una palestra, ragazzi. Questa è stata stasera, è stata una palestra. Lo so che con la batteria, con il basso a tutto volume, con la chitarra a tutto volume, col cantato di Arai a pieni polmoni. Sì, c'è tanta energia, però insomma siete stati bravi lo stesso, secondo me. Non è semplice. Poi l'acusticità in una radio per la prima volta è un battesimo. Non è male, guarda, te l'ho detto, eravamo curiosi di provare questa esperienza e ci è piaciuta. Siamo molto contenti di questa esperienza. Bene, si potrebbe ripetere questa esperienza. Come magari. No, siamo disponibili, magari. Con il prossimo disco. Contattateci su Facebook. Poi, ridiciamo il discorso del disco, come si intitola il disco? Il disco si intitola Senza Ritorno, lo potete avere contattandoci sul nostro sito di Facebook, ci potete cercare su Facebook Gli Impossibili, oppure su Twitter, sempre Impossibili, oppure su myspace.com/impossibili. Per avere il nostro album, oppure potete andare direttamente, se ci volete solo conoscere così, anche su YouTube, che scrivete Gli Impossibili, Gli Impossibili Milano, Gli Impossibili Punk, ne cliccate un nostro video e vengono fuori di conseguenza tutti gli altri anche. E anche nei concerti, diceva giustamente Matteo. Sì, ci sono anche dei ma a proposito, se volete vedere i nostri live, potete avere un'anteprima su YouTube, perché ci sono, scrivete Gli Impossibili Cani Blu Live. Impossibili Cani Blu Live e viene fuori un pezzo di un nostro live che abbiamo fatto in un centro sociale. C'è uno, ragazzi, c'è uno che cammina sul soffitto. Però. Vi dico solo questo. Trattasi di King Mob. È da andare a vedere. Molto interessante anche questo. Sì, volevo chiederti una cosa. In questo disco avete suonato voi quattro e chi ancora vi ha dato una mano, oltre al produttore o all'arrangiatore, non produttore, quello che ha mixato il disco? Ah, è Dario senz'altro è stato... Che importanza, ne abbiamo parlato all'inizio di trasmissione, però che importanza ha avuto? Beh, Dario è sicuramente un grande musicista, perché suona la batteria lui. Tra il resto ha suonato con noi. Adesso ha suonato con noi, perché eravamo in difficoltà con un batterista, me l'ha sostituito. Gli ha dato una mano. Sì, sì, bravissimo, tra l'altro. Cioè, disponibilissimo. Dimmi. E questo secondo me è qualcosa che ci caratterizza, che non si facciano grossi problemi nel proporre concerti non preparati. Non... Andiamo anche allo sbaraglio, c'è successo in Toscana. Sì. Mm. Dove là, praticamente, sì. In Toscana è successo, diciamo poche parole, ci aveva appena lasciato il nostro batterista. Tre giorni prima con concerto fissato in Toscana. E insomma, visto che c'era la gente che ci aspetta, i ragazzi erano già in città, non potevamo. Abbiamo contattato un batterista, nostro amico Devil. Salutiamo. Sì, anche. Ciao David, grazie. Grazie ancora, soprattutto per il ritorno dopo. Sì, è stato interessante improvvisare. Non abbiamo mai fatto prove. Anche lui non ha mai provato con noi né niente. Ma suonava in altri gruppi, sto ragazzo. Sì, David. Sì. È un grande batterista, ha suonato con Classe Criminale, gli FFD, Linea, esatto. Quindi aveva già un certo passato musicale. Sì, però con noi non l'aveva mai provato. Una cosa improvvisata lì sul palco, è stato bello. Dimmi Matteo. Sì, no, questo esprime un pochino il nostro essere, il nostro spirito. E cioè che andiamo lì, ci divertiamo. Liberi, assolutamente. Senza paletti, senza preconcetti, decisioni. E l'abbiamo potuto esprimere proprio in questo momento. Tra l'altro il pubblico apprezza molto questa cosa, perché lo sente che la cosa è naturale. poi ti stavo dicendo di Dario, sì, che niente, molto preparato lui sul genere, molto, insomma, lui è una vita che fa punk. Secondo me il fonico deve essere specializzato in un genere, se è specializzato nel tuo genere è meglio. Cioè, sai, quei fonici che fanno tutto, alla fine fanno tutto e non ha avuto Dario nel vostro disco, assolutamente. Dario è fondamentale, ci ha fatto rifare le chitarre, perché all'inizio abbiamo registrato le chitarre che non andavano bene, ce l'ha fatta rifare completamente. Tra l'altro mi ha lasciato di stucco, mi ha fatto vedere la forma d'onda di una chitarra che gli avevo dato di riferimento, e lui ha settato la mia, ha regolato l'amplificatore, ha regolato tutti i volumi, gli effetti, insomma me l'ha resa quasi identica alla forma d'onda che gli avevo dato io. Incredibile. Ah, fantastico, guarda, sono rimasto così di sasso. Sono rimasto di sasso. Tra l'altro io, cioè, insomma, nel mio picco c'ho una certa esperienza negli studi di registrazione, perché ho fatto parecchi album. Certo. Però guarda, una persona così preparata come Dario. Quindi è stato un impulso di più a fare un disco praticamente. Sì, anzi il prossimo se lo faremo. Ci sarà sempre lui. sì, andiamo sicuramente da lui, perché quindi è veramente molto preparato, molto bravo. C'è stato lui e poi qualche altra persona o basta? Quattro. No, poi lui. C'è stato Alberto di Massive Arts, che ci ha fatto il mastering, è sempre molto molto professionale lui, ci ha fatto la parte finale, il mastering è la parte finale in cui si alzano tutte le frequenze in modo tale per calibrare tutto, in modo tale che il disco suoni al massimo volume però non sia tagliata nessuna frequenza, e lui ha fatto un ottimo lavoro, lui sempre molto professionale, molto disponibile, è stato sempre. Quindi questo era il gruppo vostro, voi quattro più Dario e più questo ragazzo che aveva mixato le cose. Quindi il risultato io l'ho sentito più di una volta e il disco è venuto benissimo, cioè, è il suono vostro, quello che deve essere praticamente. No, infatti guarda, uno una volta mi aveva fatto una critica un po' così che era già prevenuto, devo dire anticipatamente. Però dopo ha sentito il disco ha cambiato idea e ha detto effettivamente non mi aspettavo che suonasse in questo modo, perché insomma il lavoro l'abbiamo fatto bene. Quanto tempo di lavoro? È parecchio, questo qua ci abbiamo messo 10 giorni più, poi abbiamo fatto una giornata di master, 11 giorni in tutto, sì, concentrati un po'. Sì, perché poi dobbiamo... siamo andati anche in studio da Dario, insomma abbiamo fatto un po' spezzato. Dovete essere per forza concentrati, abbiamo parlato dell'economia all'inizio di trasmissione, sempre quello il discorso. Bene, 23:55, abbiamo quasi finito, abbiamo ancora qualche minuto. Peccato. Sì, è stata una bella cavalcata sulla vostra musica, ma sulla vostra esperienza, sul vostro progetto, non solo la musica, non solo su Senza Ritorno, abbiamo parlato di tutto, di tuoi 6 album, di tuoi e dell'ultimo album vostro, eccetera. è una bella cosa. Il progetto va avanti e quello è importante, nonostante tutto, nonostante le difficoltà. La musica non ha confini, non è così? Esatto. Non al di là del punk è un genere. A me piace tutto, a proposito, esatto, volevo dire che io ascolto anche altro tipo di musica. Beh, sicuramente quello, cioè, siamo eclettici, sì, ascoltiamo, sì, un po', sì, di, sì, tutto, sì, sicuramente. Non è che ascoltiamo, non è che ci fissiamo, ascoltiamo solo quel genere, ascoltiamo tutto. Però il punk vi dà più beh, quello è quello che mi dà più la carica, più sicuramente carica. Sì, sì. Ok, con cosa finiamo stasera, ragazzi? Allora, cosa facciamo, ragazzi? Cos'è che avevate deciso? La mia ragazza a 9.000 volte. Ecco, questo pezzo mi ero ispirato, non so se vi ricordate quel cartone animato di La Mula, ragazza dello spazio, praticamente, certo, fulminava suo fidanzato con una scossa elettrica. Ecco. Lui se lo ricorda, Michele se lo ricorda. Ricordi. Esattamente. E allora niente, mi sono ispirato a quel cartone per fare questa. Una delle prime canzoni, te l'ho detto, che erano più spensierate. Finiamo con la spensieratezza. Benissimo, grazie a Michele Tosoni in regia, grazie agli impossibili che sono venuti a trovarci stasera, ancora gli impossibili live. Ieri mi ha seguito ancora a casa mia. Dopo di me ha sentito la luce andare via. Entrate da spiato gli esperimenti miei. Se sbaglio gli ha suonato l'esperimento 6. Go! Il fumo si dissolve, viene verso di me. Forte, mi vuole uccidere. Dicevi di essere stato a scuola di robot. Al massimo ho sbagliato di 9.000 volts. Go! La mia ragazza ha qualcosa che non va. E prima o poi qualcuno se ne accorgerà. La mia ragazza è programmata coi Ramones. La mia ragazza ha 9.000 volte. Ora è sempre sola, amici più non ha. Distrugge la mia scuola con 10 megawatt. Io ho creato un mostro ed ora io lo so. Il corpo è come il nostro, ma il cuore è di un robot. Go! La mia ragazza ha qualcosa che non va. E prima o poi qualcuno se ne accorgerà. La mia ragazza è programmata coi Ramones. La mia ragazza ha 9.000 volte.